Allora, nel Kitsur, sempre nel capitolo 29, siamo arrivati al comma 14. Yud-Daled, Seif Yud-Daled dice così: Assur le Adam le vakesh din min ha-shamayim al chaverosh e'asa lo ra'ah. Una cosa molto comune: qualcuno mi ha fatto un male, io prego a Kadosh Baruch Hu che faccia arrivare un male a lui. D'Alaha dice: è vietato fare così. È vietato chiedere in cielo che faccia arrivare un male a qualcuno. Non è occhio per occhio, allora. A qualcuno che ha peccato Scusa, o che ha peccato nei pure per suoi Goi, confronti. eh? Ok, Pure per Goi. Sì, l'abbiamo. proprio, può darsi, però non, il contesto è quello Scusa, ebraico. l'ho messo. Noi parliamo di Torah, non di Gesù Cristo. No, Non si nomina nemmeno quello. ascolta, però. Massimo. Vedavka bedeitlei dayana be'ara. Questo si intende tecnicamente nel caso in cui è una cosa che è gestita da un corpo giuridico come Bet Din sulla terra. Cioè, se tu devi portare una persona davanti al Bet Din, devi portarlo davanti al Bet Din e il Bet Din deve giudicare, non deve invocare la rabbia il coinvolgimento divino. Ok? Se è una cosa che non può essere gestita da un Bet Din, allora devi pregare a Kadosh Baruch Hu che la cosa si risolva, ma non contro una persona. Ok? V'chol ha-tzo'ek al chavero, e c'è scritto addirittura chi prega, letteralmente significa urla, però nel contesto di preghiera, chi prega, chi urla contro un altro, sheyeanesh min ha-shamayim, chi prega a Kadosh Baruch Hu che qualcun altro sia punito dal cielo, dice addirittura Hu ne'enash tchila, lui viene punito prima. Come abbiamo sempre detto, che quando tu fai aprire i libri, no? Tu dici, ah, questo qui, allora aprono anche il tuo libro in cielo. Dicono, scusa, ma mica per te è tutto il 100% chiaro, nitido, pulito. E allora non conviene andare su questa strada, diciamo così. V'yesh omrim, ma c'è chi dice nell'alakha, da filu letle dayana be'ara, anche se è una cosa che non può essere gestita da un bet din terrestre, assur litzokalav, comunque non si può pregare per il male di un altro in cielo, elo in ken hodiyot echila, a meno che prima gliel'ha comunicato. Cosa significa gliel'ha comunicato? Non è che gli ha detto ora vado a pregare contro di te, gli ha detto il problema, cioè ha cercato di risolvere parlandoci. Solo se non si risolvesse in questa maniera, allora può chiedere aiuto a Kadosh Baruch Hu che si risolva, ma di nuovo non per far punire, per risolvere. Poi dice al prossimo paragrafo, Haroe et chavero shechata, se uno vede un altro che pecca, o shealach bederech lo tov, o che segue un comportamento, una strada non buona, mitzvah lachaziro le mutav, è una mitzvah rifarlo ritornare, farlo avvicinare verso il bene. Ok? Ule hodio, e quindi di fargli essere cosciente, conscio sheuchote b'maaseh ha-varaim, che in questo comportamento negativo sta effettivamente peccando. Sheneemar, come è detto, ocheach tochiach et emitecha, come è detto nella Torah che bisogna ammonire il prossimo. Quindi la mitzvah dell'ammonimento che cosa è? Le prime parole che sono scritte qui, mitzvah le'achaziro le'mutav, la mitzvah è di avvicinarlo, di farlo tornare alla strada giusta. Quindi la mitzvah non è di sgridare. Il fine dell'ammonimento è di avvicinare, ok? Quindi, come vedremo, ci sono anche dei limiti e delle definizioni a questa mitzvah. Se tu sai che il tuo ammonimento non porterà un frutto positivo, in alcune situazioni l'Alakha dice, allora non devi farlo questo ammonimento. Dipende se è una mitzvah della Torah o una mitzvah rabbinica, ci sono delle definizioni specifiche nell'Alakha. Qui parliamo, ora, uno che vuole ammonire, nel senso vuol far presente al prossimo che sta sbagliando, amochiach et chaverò, ben bidvarim leven shebenor beno, ben bidvarim shebenor leben amakom, che siano cose tra uomo e uomo, che tra uomo e Dio, in ogni caso, tzarich lo chicho beno leven atzma. Il modo di comunicare questa cosa è solo in privato, tra lui e lui, non in pubblico. E in che maniera? Vidaberlo benachat. Parlarci, come si dice benachat? Con tranquillità. Tranquillamente, con tranquillità, ubelashon rakka, e con un modo garbato, di parlare garbato e calmo. E rakka è anche soft, significa con empatia, con sentimento. Con dolcezza. Con dolcezza, bravo. Viodio, egli comunichi, sheino merlo, e la letovato, che glielo sta facendo presente per il suo bene. La viò le chaye olam haba, per aiutare a portarlo al olam haba. Vechol shefshar biyado limchot veino moche, in generale, chi vede un problema e ha la possibilità di protestare, ha la possibilità significa la sua voce sarebbe ha un certo peso, veino moche, e non protesta, hu nitpas beavonze, lui come se rientrasse anche lui nello stesso peccato. Come se diventassi complice, che vancia Yaf Sharo Limchot, perché aveva la possibilità di protestare. Come Edim Zomemim. È simile. Però, solo ultima cosa, scusa. Bamed varim amurim, quando, in quale caso stiamo, abbiamo detto questo, che Sheume Damesh Ishmalo, quando lui crede che ci sarà un ascolto dall'altra parte, che ci sarà un dar retta alle sue parole, quindi che avranno un esito positivo. Avalim yodeabo shelo yishmalo, ma se conosce la situazione e sa che quell'altro non gli darà retta, allora assur le hochicho, allora diventa vietato per lui ammonirlo. De amar rabila mishum rabilazar be rabbi shimon, dissero i chachamim che shem she mitzvah al adam lomar davar anishma, così come è obbligo e mitzvah che la persona dica, si esprima per una cosa che sarà accettata, ok? Quando le parole saranno accettate, kach mitzvah l'adam shelo lamar lomar davar sheinonishma. Così è mitzvah per la persona di non esprimersi quando sa che le parole non saranno prese. Come se va a sapere? Ognuno deve sapere nel proprio contesto, può cercare di capire. Conosci secondo la... Non è che puoi sapere come profeta, ma puoi conoscere una persona e sai come prende le cose. Quando questa non è una cosa che si fa in maniera generica, si fa, come abbiamo detto prima, in maniera umana, con garbo, con empatia, quindi significa non puoi farlo con uno sconosciuto, devi conoscere la situazione, se hai un dubbio cerca di capire. Scusa, solo concludo, chiedo scusa. Rabbi Abba Amar Chova Shenemar al tochach letz penisnecha o chach lechacham viyavecha. Rabbi Abba dice questa cosa addirittura è un obbligo, che è un termine più obbligatorio, diciamo così, del termine mitzvah in questo contesto, come c'è scritto, non ammonire letz. Letz è un pagliaccio, cioè uno che non prende le cose sul serio. Non ammonirlo perché lui non ti arriva, non ti odi, ok? E ammonisci il chacham e lui ti vorrà bene per questo. Sì. Allora, in un contesto potresti farti odiare da una persona, in un altro contesto potresti farti ringraziare da una persona ti dice grazie che mi hai fatto presente questa cosa. Quello è il contesto in cui va ammonita la persona, il contesto in cui la persona dice ma tu chi ti pensi di essere, anche e io sono in privato. E tu cosa fai, tanto sei peggio di me, sì, eccetera, sì, eccetera, eccetera, e ti batti il petto come sì, si piace sì, dire a Roma. Allora in tutti questi contesti probabilmente è meglio evitare e trovare un altro modo, perché l'ammonimento esiste anche positivo senza ammonire. Ti ricordo di nuovo le prime parole che abbiamo detto qui, mitzvah le hachaziro, la mitzvah è di farlo tornare. A qualcuno lo fai tornare quando gli dici guarda che stai peccando, ah non avevo capito che sto peccando, ora torno al bene. A un altro se gli dici così diventa difensivo, si mette sulla difesa e diventa peggio. Allora qual è il modo? Con un abbraccio, con un'inclusione, senza magari parlare di quella cosa. Gli dici vieni al tempio di Shabbat, automaticamente in quel momento che sta al tempio non sta facendo una cosa che non si può fare di Shabbat. Gli hai detto guarda che Shabbat non puoi fare così, chi sei te, dimmi che non puoi fare così. Però già che sta lì l'hai già incluso in una mitzvah, senza neanche parlare del peccato. Questo è il senso di far mettere tefilina alla persona, di fargli mettere una mezuzah sulla porta, cioè è un modo di ammonire senza ammonire. Ritorniamo sempre con Avat Israel. Scusa. No, no. Ok.